Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo nella seconda ora del Monte dei Paschi di Siena. Perché? Perché alle 2:30 è iniziato il Consiglio di amministrazione per approvare il piano di ristrutturazione della banca con tutti i correttivi, le richieste arrivate da Bruxelles. E ci sarà tra circa mezz'ora, 40 minuti, una conference call anche con i giornalisti per illustrare il piano. Ne parleremo alle 18:20, ma ricordo che la Commissione europea ha chiesto al Monte dei Paschi di varare un aumento di capitale, cioè mettere soldi nella banca, da 2 miliardi e mezzo di euro, che è uguale alla capitalizzazione attuale del Monte dei Paschi di Siena. Il che vuol dire raddoppiare il capitale sostanzialmente, e questo entro il 2014. I fondi raccolti dovranno essere totalmente destinati al rimborso degli stessi Monti Bondi, 4 miliardi di euro che l'Italia, gli italiani hanno prestato appunto attraverso i Monti Bond al Monte dei Paschi di Siena. Sono stati anche bloccati i pagamenti dei dividendi su 3 obbligazioni strutturate. Sono titoli con basso grado di priorità nei rimborsi, non dà luogo il blocco del pagamento a un default di chi li emette. Comunque, nuove misure potrebbero riguardare i tagli al personale. Detto questo, il miglior titolo che c'è oggi a Piazza Affari tra quelli a maggiore capitalizzazione è proprio il Monte dei Paschi, che guadagna il 6% a 23 centesimi di euro per azione. E quindi passiamo alla borsa, più 0,70% Milano, sarà come sempre tema di approfondimento, più 0,70% Milano, che è l'unica positiva tra le borse europee, perché Parigi è invariata, Francoforte perde lo 0,40, Londra meno 0,30, l'America meno 0,60. Perché? Perché vanno bene, oltre a Monte dei Paschi, tutte le banche che molto pesano a Piazza Affari, pesano sull'indice complessivo, e infatti UbiBanca più 4,5%, Banco Popolare più 3,70, Fondiaria Assai più 2,90, Unicredit più 2,70, Popolare Emilia Romagna più 2%, come Intesa San Paolo, e la Popolare di Milano guadagna l'1,20. Chi perde oggi in borsa? Campari meno 2, Telecom meno 1,5 come CNH Industrial, e Luxottica perde l'1,30, anche Tod's meno 1%. Debole oggi il settore del lusso, se si aggiunge infatti anche Ferragamo che perde 0,5%. Percentuale. L'euro sul dollaro è a quota 1,3570. Devo dire perché vanno bene le banche, vedo già alcuni messaggi. Beh, insomma, lo spread si è ridimensionato per quello che riguarda il valore, ma ed è ampiamente in una zona tra virgolette di sicurezza, ma soprattutto dopo il venir meno del rischio crisi di governo, Milano va a recuperare sui titoli che più sarebbero stati coinvolti da una crisi di governo. Ancora, molto bene, faccio notare World Duty Free, più 5,70, molto ottimismo, guadagnato dal primo giorno di quotazione il 15%, guadagna appunto 5,70%. Oggi anche di questo parleremo. In apertura però toccheremo anche il tema delle dichiarazioni che ha reso oggi Attilio Befera il numero uno dell'Agenzia delle Entrate a Radio 24. Non ho detto lo spread, mi fate notare, avete ragione, 248 punti. Dicevo, parleremo delle dichiarazioni di Attilio Befera sull'evasione e anche sul redditometro, ma poi ci occuperemo di quello che è l'altro tema della giornata. È infatti iniziato un incontro praticamente adesso. Perché lo dico? Perché il tema riguarda Alitalia e le ferrovie dello Stato, perché non ci sono solo i francesi, ma l'incontro a Palazzo Chigi è previsto tra governo e azienda, ma preceduto da un giro di tavolo con, attenzione, anche la presenza dell'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Allora, l'Italia ha bisogno di 300 milioni di euro per riconvertirsi sulle rotte intercontinentali, però il fabbisogno arriverebbe, secondo alcune fonti, a mezzo miliardo. Ricordo che Air France, che è il primo socio, è al 25% dell'Italia, Air France KLM chiaramente, non ha partecipato all'aumento di capitale, ha detto che manterrebbe l'italianità, ma sono circolate la settimana scorsa indiscrezioni smentite da Air France, invece in senso contrario, cioè che se Alitalia dovesse essere completamente francese e entrare al 100% o una quota vicina in Air France KLM, vi sarebbe un drastico ridimensionamento anche di Fiumicino, era circolata ipotesi di 4.000 posti di lavoro in meno e soprattutto un drastico ridimensionamento del ruolo delle rotte italiane. L'unico hub, o il principale hub, sarebbe Parigi, Charles de Gaulle. Devo dire che nonostante le smentite francesi, un po' io ci credo personalmente, perché insomma sappiamo che anche Air France in questo momento è in maggiore difficoltà rispetto al 2008 e poi la tentazione sarebbe troppo forte per declassarla semplicemente a voci di corridoio smentite da Air France. La tentazione c'è, girarci attorno. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Sì, ho dimenticato tra i temi che tratteremo anche quello che è stato pubblicato da Sole 24 Ore domenica, e cioè i buco, non tanto per i derivati, ma i buchi nei bilanci dei comuni italiani. Insomma, ne parleremo con lo stesso autore, Gianni Trovati, perché se uno va a vedere quello che è stato pubblicato su Sole 24 Ore, ci sono comuni italiani che sono vicini, diciamo, a una situazione finanziariamente molto, molto, molto critica. Comunque, le altre notizie, dicevo, oro in ripresa a 1325 dollari l'oncia, petrolio in leggero calo a 102 dollari al barile. L'ENI oggi ha stimato nel suo World Oil and Gas Review un andamento dei paesi industrializzati quanto a consumo di petrolio che stenta in tutto il 2012. È crollato il consumo di petrolio in Europa, meno 4%. Comunque nel 2012 vi è stato anche un record di produzione petrolifera, praticamente più 1%, e gli Stati Uniti sono diventati il primo produttore di gas al mondo, soprattutto grazie a questa produzione di shale gas, di cui quando riusciremo ce ne occuperemo, dicevo, superando anche la Russia, che era storicamente il primo produttore di gas a livello mondiale. Il rapporto sulla povertà in Europa, i dati Eurostat, l'Italia ha una quota, diciamo, di persone a rischio povertà più alta della media comunitaria, però attenzione, siamo al 20° posto. La media in Europa delle popolazioni a rischio povertà è del 24%, in Italia del 28%. Segue poi l'Irlanda 29, la Grecia 31, l'Ungheria 32. In testa la classifica la Repubblica Ceca, l'Olanda e la Svezia. Una buona notizia invece riguarda la Grecia, che potrebbe uscire dalla recessione nel 2014, quindi chiudere i 6 anni consecutivi di recessione economica, con una crescita dello 0,6% del PIL. Quest'anno il PIL greco farà un altro meno 4%, però secondo la bozza di bilancio del governo ellenico nel 2014 il surplus primario dovrebbe attestarsi al 2,8 miliardi di euro e la disoccupazione ridursi non tantissimo ma un po', dall'attuale 27,9%, che è un record, al 26%. E evidentemente queste prospettive e proiezioni vengono credute se gli hedge fund, quindi i fondi a maggiore interesse speculativo, si fidano che la Grecia possa uscire dalla recessione e abbia voltato pagina, e infatti c'è un fortissimo interesse dei fondi speculativi americani per le banche greche. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che a guidare la corsa alle banche è l'hedge fund di John Paulson, popolare per le scommesse che fece contro il mercato sui mutui subprime nel 2007. L'economia della Grecia sta migliorando, ha dichiarato lo stesso Paulson, e a questo dovrebbe far bene al settore bancario. Italia, allora, nei primi 8 mesi dell'anno, del 2013, è crollato il gettito dell'IVA, meno 3 miliardi e 700 milioni, è un 5% in meno di gettito IVA. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, spiegando che l'andamento riflette la riduzione del gettito della componente relativa agli scambi interni, e quindi i consumi, e del prelievo sulle importazioni, perché c'era un ciclo economico, le importazioni sono crollate e continuano ad andare molto, molto male. Questo è un vantaggio per la bilancia commerciale, non è un vantaggio per l'IVA. Comunque le entrate dei primi 8 mesi sono stabili a 268 miliardi, c'è un leggerissimo calo di 700 milioni sul 2012, uno 0,3%, meno 0,3%. Il gettito IRPEF si è ridotto di 750 milioni, ma come spiega il Ministero, come effetto dell'andamento negativo dei versamenti in autoliquidazione e anche delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente del settore privato. In crescita invece le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, più 3,2%, e l'IRES, che ha avuto una crescita del 7,5%, pari a 1 miliardo e 300 milioni di euro. Comunque, quello che conta per i conti, scusatemi il gioco di parole, per i conti pubblici è il fatto che il gettito alla fin fine sia invariato, 268 miliardi contro 268,7 miliardi dell'anno scorso, dei primi 8 mesi dell'anno scorso. E di evasione di gettito, ma anche di evasione fiscale, ha parlato questa mattina, ospite di Giovanni Minoli a Mix24, il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che ha detto: guarda, esiste un'evasione, ha ammesso che esiste un'evasione di sopravvivenza. Vi ricordate le polemiche che causò il viceministro Fassina quando ammise che esisteva un'evasione di sopravvivenza? Ecco, ha detto la stessa cosa oggi Befera, esiste un'evasione di sopravvivenza, e ha anche detto che con meno tasse probabilmente ci sarebbe meno evasione, e su questo penso che ormai siamo tutti d'accordo, perché se ammetti che esiste un'evasione di sopravvivenza, che non vuol dire giustificare l'evasione, mi raccomando, vuol dire solo far capire che su alcune categorie professionali la pressione fiscale è così alta che ti pone quasi ai limiti della legalità o ti obbliga a uscire dalla legalità. E beh, se ammetti questo, ammetti anche che in quelle categorie che hanno questa pressione fiscale, forse l'avessero un po' più bassa, pagherebbero tutte le tasse. Ci sono vari tipi di evasione, noi cerchiamo di combatterli tutti, ovviamente la massima intensità sui grandi evasori, ma cerchiamo di fare una strategia diversificata. Ma quindi l'evasione di sopravvivenza può esistere? Penso di sì, ma non essendo io un evasore. Senta, ma se la pressione fiscale fosse minore, sarebbe meno, ci sarebbe meno evasione secondo lei? Indubbiamente. Perlomeno ci sarebbe meno evasione da carenza di liquidità. Cioè è folle la pressione fiscale che c'è. Questo non sta a me giudicarlo. Da 4-5 anni annuncia di aver recuperato tra gli 11 e i 13 miliardi di evasione. L'evasione stimata però è sempre la stessa, grosso modo, intorno ai 100 miliardi. Cos'è che non va allora? Se lei recupera e l'evasione è sempre quella, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Sì, a parte che vorrei un aggiornamento su quei 100 miliardi, perché sono un po' datati, ma è chiaro che è una battaglia lunga e dura. Cioè, è datata perché quanti sono? Mi pare che quei 110. Dati siano... No, non lo so, non lo so dire. Comunque qualcosa abbiamo recuperato senz'altro, e si è forse abbattuta un po' la forbice fra reddito percepito e reddito dichiarato. Vabbè, ma insomma, allora cos'è che non va? Però non va, se è molto alta questa evasione. Noi siamo un popolo in cui l'evasione ancora fa parte di una cultura e bisogna cambiare. Ma se lei fosse ministro cosa farebbe di diverso? Ma non credo che ci sia da fare qualcosa di diverso. Bisogna insegnare agli italiani, specialmente alle nuove generazioni, che evadere non è furbizia. E poi sempre Attilio Beffera ha detto faremo meno controlli nel 2000, non riusciremo a fare tutti i 35.000 controlli previsti per il 2013, però sul redditometro non vi sarà nessuna marcia indietro, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli. I redditometri, che non è di Equitalia ma di Agenzia delle Entrate, sì, vabbè, certo, non misura chi è ricco, misura quanto spendi rispetto a quanto dichiari, che è una cosa completamente diversa. Come i parametri detto, di valutazione quali sono? Per capirli semplificamente. Le spese che sono state effettivamente sostenute da un cittadino, quelle spese vengono misurate con quanto ha effettivamente dichiarato. Se è incoerente, ed è molto incoerente, chiediamo chiarimenti. Chiarimenti. Senta, ma il redditometro non è illegale? Eh? No. Perché? No. No, ma la legge non viola la legge sulla privacy? Assolutamente no, abbiamo superato tutti i controlli, ovviamente lo stiamo facendo in piena sintonia con il garante. Ecco, ma il garante vi ha dato via libera o no? Stiamo mettendo a punto le ultimissime particolarità. È per questo che lei ha detto quest'anno non riusciremo a fare i 35.000 certo. controlli previsti? Certo. Non è che sta facendo un po' marcia indietro? Assolutamente no. Ancora due notizie in breve prima di passare al primo tema, che si chiama questo matrimonio un po' strano che si ipotizza tra Alitalia e le Ferrovie dello Stato. Ma dicevo, ancora due dichiarazioni, quella del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha detto attenzione, le banche devono rafforzare il loro capitale, il quadro macroeconomico resta debole e devono cambiare passo per sostenere l'economia, non c'è una soluzione immediata semplice, ha aggiunto Visco, per far sì che le banche tornino a svolgere pienamente il loro ruolo di sostegno, serve proseguire nella redditività e rafforzare il patrimonio. E poi ha aggiunto sempre Visco sulle banche, attenzione, comprate meno BTP, cioè il ritorno della fiducia degli investitori, l'equilibrio dei conti pubblici, le riforme, eviteranno tensioni sul mercato dei titoli di Stato, consentiranno una riduzione dell'esposizione delle banche italiane nel BTP affinché aumentino invece il sostegno alle famiglie e alle imprese. Allora, visto che lo dice il governatore della Banca d'Italia, quello che controlla l'autorità di vigilanza sul mondo bancario, quindi conosce bene quello che fanno le banche, non lo diciamo noi né i nostri ascoltatori, io capisco due cose, che se le banche devono tornare a svolgere pienamente il loro ruolo di sostegno all'economia, vuol dire che non lo stanno facendo, se no perché invitare le banche a tornare a svolgere pienamente il loro ruolo di sostegno all'economia? E se il governatore della Banca d'Italia dice che devono smettere di comprare meno BTP e aumentare il sostegno alle famiglie e alle imprese, vuol dire che in questo momento stanno comprando più BTP di quanto sostegno a famiglie e imprese stiano dando. Punto e basta, lo dice il governatore della Banca d'Italia, non il cattivo di turno. E l'ultima notizia riguarda invece Ionella Ligresti, perché in realtà non andrà ai domiciliari. Questa mattina gli avvocati di Ionella Ligresti, ex presidente di Fondiare SAI, ai domiciliari, in carcere, avevano comunicato che il GIP aveva accolto l'istanza e quindi Ionella Ligresti sarebbe andata ai domiciliari. Non è stato così, deve esserci stato un equivoco, ha commentato poi il legale Lucio Lucia. È incredibile, però a noi avevano detto a voce che avevano accolto l'istanza di domiciliari, nel pomeriggio invece è arrivata la comunicazione del respingimento. Ai domiciliari invece è andato l'ex manager di Fonsai, Emanuele Erbetta, che è stato portato nella sua abitazione a Novara. Infine, il produttore, questa è un'altra vicenda però, il produttore cinematografico Vittorio Cecchigori è stato condannato a 7 anni di reclusione in relazione al crack da 600 milioni di euro della società Finmavi, lo ha stabilito oggi la sesta sezione penale del Tribunale di Roma. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora parliamo di questo strano matrimonio che non so se è sabbia da fare, ma è veramente così, mette assieme due soggetti in realtà in concorrenza per buona parte delle loro tratte fino adesso, ma evidentemente la situazione su Alitalia si è complicata. I have a dream. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves. One day. Oh, il sogno di oggi è, lo dico con massimo rispetto verso la compagnia di bandiera, è non occuparsi più di Alitalia. Perché ormai da quando questo programma esiste, abbiamo festeggiato i 14 anni della radio il 4 ottobre, ciclicamente c'è il prezzo della benzina, tensione sui mercati e Alitalia. Alitalia nel 2004-2005, Alitalia nel 2008, Alitalia adesso, basta. Trovate una soluzione. E poi non occupiamoci più dell'Italia. Nei primi sei mesi perde quasi 2 milioni di euro al giorno, perdeva 1 milione di euro al giorno nel 2008, quindi ha perso 300 milioni di euro, ha in cassa liquidità per 128 milioni di euro. Dal 2009 al 2012 la nuova Alitalia ha perso 1 miliardo di euro. Vediamo di capirci su alcune dichiarazioni della scorsa settimana. È chiaro che la bad company è ricaduta quando si divise in due Alitalia sulle tasche degli italiani, ma questo miliardo perso, è vero, è giusto dire che non l'hanno perso gli italiani ma gli imprenditori che ci hanno messo i soldi, perché erano privati e hanno perso 1 miliardo di euro. La stima di quanto ci è costato tra mancati guadagni, accollamento dei debiti, costi di ristrutturazione, cassa integrazione dipendenti, monopolio della tratta Milano-Roma, perché non c'è più la concorrenza tra Air One e l'Italia, il giochetto di mantenere Alitalia italiana nel 2008 ci è costato 5 miliardi di euro. Terra IMU di un anno. Letta ha dichiarato: non può stare da solo, dobbiamo integrarci, non ha le dimensioni per avere l'Italia una compagnia globale, bisogna integrarsi con gli altri. Sono sicuro che Alitalia non può stare da sola, ne ero convinto nel 2008, altri hanno fatto altre scelte, hanno sbagliato, secondo me hanno fatto il male dell'Italia a fare la scelta di tenere da sola, bella isolata, la nostra compagnia di bandiera, che non ha, e l'Italia non ha la dimensione per avere una compagnia di bandiera globale, bisogna integrarsi con altri. Nei prossimi giorni, intendiamoci, ormai è tutto privato, lo Stato non c'ha più niente lì dentro perché il governo di allora fece questa scelta. Conta, insomma, ovviamente ecco. Noi lavoreremo per evitare innanzitutto problemi ai viaggiatori e ai lavoratori, ma soprattutto per integrare la compagnia di bandiera dentro una grande alleanza internazionale. Così Enrico Letta, ospite di Sky TG24. Oggi il numero uno, il ministro dell'economia degli Emirati Arabi Bin Zayed Al Mansouri, ha affermato che all'Italia è un'opportunità che può essere interessante ma che da parte italiana ci deve essere una buona offerta. Ha continuato Al Mansouri: l'Italia ha un flusso turistico di 40 milioni di persone, all'Italia però deve essere ristrutturata in maniera corretta. E ringrazio per averci raggiunto in collegamento chi su Alitalia ha detto, insomma, la vedo un po' difficile l'unione tra treni e aerei, ossia Innocenzo Cipolletta, che è presidente dell'AIFI, l'associazione dei fondi di private equity, e del fondo italiano di investimento, che è il veicolo di private equity sponsorizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalle banche italiane, specializzato nelle piccole e medie imprese. Buonasera Cipolletta. Buonasera. Le faccio ascoltare anche cosa ha detto oggi il presidente di Confindustria Squinzi su Alitalia. Insomma, siamo favorevoli a un progetto strategico per il paese, attenzione che l'Italia forse è piccola come paese per avere una compagnia aerea globale. Il trasporto aereo sta soffrendo in tutto il mondo, voi lo vedete tutti i giorni, ci sono compagnie aeree che vanno in difficoltà eccetera, quindi se si può mettere mano a un progetto di medio lungo termine strategico per il paese, personalmente sono a favore. Chiaramente oggi per essere una compagnia globale forse l'Italia è diventata un paese un po' piccolo. E prima di capire perché lei è scettico, Cipolletta, sull'ipotesi treni e aerei e quali ipotesi vedrebbe con favore, però ci colleghiamo con Palazzo Chigi dove c'è la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano. È iniziato l'incontro e chi vi partecipa? Cioè è arrivato Moretti, a me interessa solo sapere se c'è Moretti. Questa è la domanda che ci stiamo ponendo qui tutti quanti, non è ancora confermato, sappiamo che era stato invitato dal governo, ma la sua presenza non è ancora confermato né è stata data una comunicazione ufficiale dell'inizio del tavolo, sarebbe cominciato, ci sono per il governo il premier Letta e i ministri delle infrastrutture Luca Zanonati, vertici dell'azienda, le banche fornitori, ma la presenza di Moretti non è stata ancora confermata, come non è stato visto entrare, quindi siamo in attesa anche noi di avere questa comunicazione. Ok, allora poi magari richiamaci se arriva Moretti, perché vorrebbe dire comunque un segnale anche ufficiale che perlomeno l'ipotesi sul tavolo è. Cipolletta, grazie Alessandra Scheffesi. Perché non la convince, poi la faccio riparare dopo il meteo e la pubblicità, ma in una battuta, perché non la convince l'ipotesi che andiamo a inglobare all'Italia dentro l'AFS? C'è un problema di antitrust, credo che sia abbastanza evidente, nel senso che già le ferrovie hanno una posizione dominante, ferrovie italiane, nel trasporto su rotaia. L'Italia ha una posizione dominante sul trasporto interno aereo. Messi insieme i due soggetti rischiano di avere tanti di quei limiti da parte dell'antitrust italiano e anche europeo che poi alla fine finirebbero per essere più penalizzati dall'Unione che non beneficiare. Ciò detto, è evidente, io l'ho anche sostenuto, le ferrovie con Moretti hanno dimostrato di essere in grado di fare delle ristrutturazioni e rilanci, quindi il management della ferrovia sarebbero probabilmente in grado. Il problema è che mi sembra difficile mettere insieme queste due realtà, perché poi una finisce per ostacolare l'altra. Beh, non oso pensare cosa sarebbe la tratta Milano-Roma, per esempio, perché già con Air One l'Italia abbiamo eliminato la concorrenza aerea. A questo punto, di fatto, lasciando fuori Italo, che mi sembra che comunque abbia anche i suoi problemi in questo momento di gestione, di conti proprio, dico, avremo un quasi monopolio sulla tratta Milano-Roma. Sicuramente, che peraltro è una delle tratte più frequentate di tutta Europa. Anche Milano-Napoli fanno nota agli ascoltatori, giustamente. Certo. No, ci mancherà. Insomma, l'asse, la gamba della T, e probabilmente con l'alta velocità anche sulla Torino-Venezia rischieresti di avere anche condizioni di monopolio su Torino-Venezia, Torino-Trieste. Sì. Dopodiché bisogna riconoscere che i viaggiatori in questi ultimi anni hanno avuto un grosso vantaggio da questa concorrenza. Ah, non c'è dubbio. Da questo punto di vista sarebbe un peccato che magari ci trovassi in una situazione differente. Credo che Alitalia debba trovare la sua collocazione, come sarò detto anche dal Presidente Letta, in un'aggregazione con un altro operatore aereo europeo o medio orientale, perché siamo in una fase di concentrazione. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Innocenzo Cipolletta, insomma, dobbiamo vendere ai francesi all'Italia ponendo dei paletti, gli Emirati Arabi sono interessati, dobbiamo farla comprare a Trenitalia, volete prenderla voi, dico voi, insomma, dalla Cassa Depositi e Prestiti, perché tanto ormai qualunque problema c'è in questo paese interviene il povero Gono Tempini e Bassanini, mi dica. Io voglio solo mantenere il sogno con cui ho aperto, non parlare più di Alitalia a quando avremo chiuso la vicenda. Beh, io penso che ne parleremo ancora per un po'. Il problema evidentemente si tratta di trovare la maniera per fare l'accordo con il Francia. Io credo che sia la strada obbligata. Avremmo dovuto farlo alcuni anni fa, quando il governo Prodi aveva negoziato su base di forza. Questo non solo avrebbe fatto risparmiare i 5 miliardi che abbiamo perso questi anni e che abbiamo pagato, ma avremmo avuto anche una posizione di forza nei confronti di Air France, così come è stata KLM, che è partner di Air France e non è acquistata perché quasi in fallimento. Oggi la situazione è completamente diversa, perché l'azienda sta veramente male. Allora ci vuole un'azione politica da parte del governo per parlare con i colleghi francesi e avviare a una soluzione che sia in qualche maniera, che dia all'Italia una sua capacità di crescita all'interno di un gruppo più grande. Se ci sono altri offerenti, come sono gli Emirati o quant'altro, si tratta di metterli in concorrenza. Ricordiamoci che all'Italia ha un accordo con Air France che si rompe e costa di milioni, quindi prima di romperlo bisogna pensarci bene. Ma mi dica una cosa, Cipolletta, lei che è navigato, conoscitore anche dei rapporti tra politica ed economia, inteso come anche partecipazione dello Stato. Allora, su Ansaldo Energia abbiamo visto che insomma, sostanzialmente la Cassa Depositi e Prestiti attraverso il fondo va a evitare che Ansaldo Energia finisca in mani straniere, poi vedremo, entreranno i coreani. Lei è d'accordo, immagino, su questo? Ma sì, nel senso che Ansaldo Energia è un'azienda ancora valida, che, non, che ha i conti a posto. Si tratta che all'interno del gruppo Ansaldo, del gruppo Finmeccanica, non ha una sua collocazione, non riesce a crescere, quindi la si fa crescere con un altro operatore. Il fondo strategico entrerà proprio per fare un accordo con un altro operatore e quindi ne uscirà in qualche misura, almeno uscirà dalla maggioranza, e quindi è un'operazione, diciamo, di far crescere all'interno di una struttura internazionale un'azienda valida con un'altra energia. Vabbè, e questo mi è chiaro, anche perché appunto il fondo che lei presiede vi è entrato da questo punto di vista in maniera anche importante. Però mi dica un'altra cosa, adesso, cioè, che cosa, che paletto mettiamo con Air France? Perché io, secondo me, lo scenario peggiore in questo momento è i compratori non si fanno vedere, resta solo Air France. Allora, l'aria che lei respira, che il governo vuole, come nell'arrocco degli scacchi, blindare all'Italia, magari entra Moretti a questo punto, entra le ferrovie, perché non vuole andare in passi di termine con le braghe calate davanti a Air France, oppure che in realtà sia un tentativo disperato, ma poi alla fine la prenderanno i francesi? Ah, io credo che sia anche un tentativo, adesso lì ho usato termini un po' eccessivi, per comunque forzare nel breve all'Italia e cercare poi di trattare al meglio una conclusione successivamente. Oggi ha anche un problema di liquidità e quindi se non risolve questo problema effettivamente si trova in una situazione che non può vantare nessun diritto, per cui una soluzione, quella delle ferrovie, ripeto, mi pare difficile, ma una soluzione che dia un po' più di tempo all'Italia sarebbe necessaria. E allora c'è da domandarsi perché non è stata trovata prima e questa è responsabilità anche degli azionisti attuali, non si deve arrivare alla vigilia di aver finito i soldi per prendere una decisione. E quindi l'alternativa, se non è solo le ferrovie dello Stato, è di nuovo la Cassa Depositi e Prestiti? Ma la Cassa Depositi e Prestiti non può entrarci proprio per sua natura, almeno con i fondi che ha costituito, perché i fondi devono entrare solo in aziende che hanno capacità di crescita e di sviluppo, e questo non mi sembra il caso. Noi non abbiamo un fondo che fa ristrutturazione e quindi questa è probabilmente una mancanza. Se poi posso entrarci Cassa Depositi e Prestiti attraverso un finanziamento diciamo condizionato a breve, ma non potrebbe entrare lei come fondo italiano di investimento? Il fondo italiano di investimento è un fondo per le piccole e medie imprese. Noi se avanti così l'Italia sta diventando una piccola e media impresa, 50 milioni, quindi proprio non possiamo. Vabbè, e vedo che le dispiace, le dispiace moltissimo. Siamo solo in imprese che sono sane e che hanno possibilità di crescita. Sì, però Cipolletta, io non ho ancora capito allora chi la salva sta l'Italia. Moretti, cioè per arrivare anche dai francesi con un gruppo proprio non in ginocchio. Cioè, i soldi... Io credo che bisogna fargli un finanziamento ponte in maniera tale che l'Italia possa continuare a operare nei prossimi settimane senza avere l'acqua alla gola. E a questo punto poter andare a negoziare con una maggiore capacità nei confronti del Francia. A questo punto si possono anche cercare altri operatori che possono essere interessati. Quello che è necessario è avere un po' di tempo e non trovarsi con l'acqua alla gola. Mi scusi, poi la lascio veramente, ma il finanziamento ponte chi li mette i soldi? Perché questa, l'Italia è privata, in questo momento è privata, certo. Cioè, allora, o mi sta dicendo che gli italiani devono mettere i soldi ai privati azionisti dell'Italia, sarebbe un caso un po' anomalo con tutte le imprese in difficoltà che abbiamo, o se no questi li devono reperire sul mercato, le banche, so, convincere un pool di banche, Intesa di nuovo, non so, chiedo. Sì, può essere un pool di banche, può, in questo caso onestamente io non ho verificato, ma può anche essere Cassa Depositi e Prestiti a fare un finanziamento. A questo punto potrebbe dare lo spazio e il tempo per riuscire a superare una situazione. Un finanziamento che si fa ridare poi, perché sono i soldi dei risparmi postali degli italiani. Assolutamente, il finanziamento, e magari ci può essere, che ne so, la garanzia dello Stato, non so se questo. Quindi secondo lei l'ipotesi della Cassa Depositi e Prestiti è percorribile sull'Italia? Diciamo come finanziamento. Come finanziamento. Grazie Innocenzo Cipolletta, che tra l'altro, oltre ad essere presidente dell'AIFI, è anche presidente del Fondo Italiano di Investimento, che è il veicolo appunto di private equity della Cassa Depositi e prestiti e delle principali banche italiane. Grazie ancora. Grazie a voi. Una grande richiesta, torna Happy World, così faccio anche il DJ, come molti ascoltatori mi invitano a fare, dicendo che non capisco nulla di economia. Avranno sicuramente ragione, non ha detto che ne capisca di più però di musica, quindi però restiamo sull'economia. Adesso passeremo anche al tema dei comuni e del buco scoperto, si fa per dire, perché sono tutte cose visibili, scoperto da Sole 24 Ore ieri, in edicolo appunto, la domenica. Vorrei però arrivare alla borsa, borsa di Milano, che ha chiuso come miglior borsa oggi a livello europeo, più 0,66%, Parigi invariata, Francoforte meno 0,36%, Londra meno 0,26%, l'America perde lo 0,42%. E allora molto bene le banche, con lo spread 248, con lo scampato pericolo, crisi di governo. Di Monte dei Paschi parleremo nella seconda ora, perché c'è il Consiglio di Amministrazione, è iniziata la conference call adesso, penso, se ho ben visto, più 6,26%, ma bene anche UbiBanca, più 4,60%, Banco Popolare più 3,70%, Fondiare Assai più 2,70%, Unicredit più 2,70% e Pop Emilia Romagna più 2,30%. E poi Intesa San Paolo più 1,5%, cito invece tra chi è andato oggi male, CNH Industrial meno 1,90% e poi tutto il settore un po' lusso, Campari meno 1,90%, Luxottica meno 1,50%, Tod's meno 1,50%, Ferragamo meno 0,80%. Ciao Condina, Radio Corio sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Delle banche abbiamo già detto, ma in realtà c'è un titolo che mi incuriosisce moltissimo, World Duty Free, che poi adesso spieghiamo anche cos'è, da quando è stato quotato ha guadagnato il 15% e oggi un 5,75%. Eh sì, ha debuttato sul listino lo scorso 1 ottobre, quindi poche sedute sono bastate a questo titolo. Ricordiamo che cos'è adesso per guadagnare comunque la cifra significativa che dicevi tu. Cos'è World Duty Free? È praticamente la costola del gruppo Autogrill, che si occupa delle attività di duty free però negli aeroporti. Autogrill negli scorsi mesi ha deciso di compiere questa scelta strategica, tecnicamente uno spin-off, che significa prendere delle attività di un gruppo e collocarle in una società nuova, una società nuova che poi potrà vivere di vita propria, magari vendere delle quote per incassare del capitale e così via. Sostanzialmente World Duty Free, come dicevi tu, ha avuto un ottimo debutto a Piazza Affari, ma lo stesso si può dire anche per la nuova Autogrill, cioè quella senza attività aeroportuali. Infatti, se si prende il valore dei due titoli da prima dello scorporo a dopo, comunque c'è un più 10. Minuti, riprende Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni. No, alcune precisazioni devo darle a chi scrive al 349-238-6666 e anche su Facebook. No, io sono preoccupatissimo che per salvare l'Italia possa entrare la Cassa Depositi e Prestiti. Non sono un sostenitore di usare il risparmio postale degli italiani per entrare all'Italia. Facevo solo notare che di riffa o di raffa, se i francesi la vogliono, ma praticamente imponendo totalmente loro desiderata, se gli altri, vedi gli Emirati Arabi oggi, vogliono vedere che venga ristrutturata prima l'Italia e poi possono essere interessati ad avanzare delle proposte, insomma, i soldi chi li mette in questo momento? Perché ha bisogno di liquidità l'Italia. Nel frattempo, ma adesso ci arriviamo, a Monte dei Paschi ha fatto sapere via libera l'aumento del capitale da 2,5 miliardi dopo il consiglio di amministrazione. Sì, certo, per l'Italia vedo anche altri messaggi, c'è l'ipotesi Ferrovie dello Stato, che attenzione, vorrebbe dire comunque caricarla sui conti dello Stato, Non ci sono azionisti privati su questo. Ma arriviamo all'altro appuntamento, appena iniziato, se ben vedo, dovrebbe iniziare in questi minuti in realtà, e cioè l'incontro del governo con le parti sociali, domani sarà la volta infatti di Confindustria, oggi sindacati, per illustrare la legge di stabilità. Vi arriviamo fra un attimo perché devo ancora concludere la borsa con Ceo Condina E al di là delle banche, abbiamo detto, di Wall Street Free, abbiamo detto, il lusso mi interessava oggi, tutto debole. Eh sì, oggi il lusso ha un po' pagato dazio, succede così quando Piazza Affari avanza, soprattutto grazie alle banche, un po' un mix di rialzi e di ribassi. Il lusso comunque resta, ricordiamo, su livelli record, per esempio Salvatore Ferragamo resta sempre sui massimi, oltre 26 euro. Sì. Spicca, come dicevi tu prima, Campari, che cede l'1,9%, Campari se possibile può anche essere un po' assimilata al lusso, qui c'entra soprattutto l'aumento delle accise sugli alcolici, che ci aspetta in Italia parallelamente al rialzo dell'IVA. Questi incrementi si potrebbero tradurre in un inasprimento fiscale del 33%. Campari realizza il 20% del fatturato in Italia, quindi c'è un po' di preoccupazione da parte degli operatori su quello che può essere, insomma, la tenuta del business nel nostro paese, comunque un calo delle vendite. Ultimo titolo, Telecom Italia, -1,70%. Telecom paga le forti preoccupazioni degli operatori su un possibile downgrade, cioè sul fatto che le agenzie di rating possano ulteriormente tagliare il giudizio sull'affidabilità creditizia del gruppo, e ricordiamo che un ulteriore taglio al rating di Telecom la porterebbe a livello di junk, cioè spazzatura. In realtà ho mentito, perché ci sono altri due titoli che volevo commentare con te rapidamente. Finmeccanica, dopo l'operazione su Ansaldo Energia, l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti da un lato, e poi anche A2A che continua a crescere +1,80%. Finmeccanica chiude in forte rialzo, si è chiuso uno dei tanti dossier che erano aperti da mesi se non da anni per quanto riguarda le cessioni, cioè quello di Ansaldo Energia, un'operazione da quasi 800 milioni di euro, soldi che in parte entrano anche in cassa Finmeccanica e serviranno per il piano di risanamento del gruppo. Per quanto riguarda A2A invece, come dicevi tu, c'è un rally molto importante, pensate che dai minimi del luglio, non questo ma quello prima, quindi del 2012, il titolo ha praticamente triplicato dai minimi. In questo caso a spingere l'azione c'è l'ipotesi che che i comuni scendano dal 55 al 50% del capitale, una possibilità che potrebbe verificarsi l'anno prossimo e che sicuramente aprirebbe di più al mercato questa ex municipalizzata, un'eventualità apprezzata, come vediamo, dagli operatori. Grazie, Ciao Condina, Radio Core, il Sole 24 Ore, migliore e peggiore in assoluto, la Roma Calcio si gode la vittoria. +24%, TAS +17%, Seltra Pertix +12,90%, Fronte Opposto, Movimax -4,21% e SESA -3,12%. Adesso passiamo al Consiglio dei Ministri che sta per iniziare. Dicevo, illustrano prima i sindacati oggi, a Confindustria e le altre parti sociali domani, le linee guida della nuova legge finanziaria. Io la chiamo ancora così ci capiamo tutti. Si chiama legge di stabilità adesso. Da quello che abbiamo capito, deve approvare il Consiglio dei Ministri la legge di stabilità il prossimo 15 ottobre, entro il prossimo 15 ottobre. Però 4-5 miliardi di euro di taglio al cuneo fiscale, quindi le tasse in busta paga a partire dal 2014, 2 miliardi ai comuni per alleggerire il peso della nuova service tax sulle abitazioni principali e misure per liberare gli investimenti dei comuni bloccati dal patto di stabilità interno. Sappiamo che ci sono molti comuni virtuosi che hanno risparmiato e hanno soldi in cassa, non li possono spendere perché c'è un patto di stabilità interno che non gli permette di spenderlo. E poi l'avvio della spending review con Carlo Cottarelli per definire la griglia dei tagli. Auguri, in bocca al lupo, sinceri auguri e un grande in bocca al lupo, perché forse è il compito più difficile. Enrico Letta sul cuneo fiscale ha detto i benefici saranno nel 2014 per i lavoratori, saranno già in busta paga, e con noi è Gianni Trovatti del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Da quello che si è capito, i 4-5 miliardi dovrebbero essere quelli per i lavoratori, per i dipendenti, non l'ammontare complessivo, perché se ricordo bene l'esempio di Prodi, poi ci fu molta delusione perché andò in parte maggiore alle imprese che non al dipendente busta paga. Sì, e soprattutto la delusione in quel caso fu alimentata dal fatto che nella difficile ricerca sempre delle coperture la manovra complessiva poi finì in realtà per aumentare la pressione fiscale da altre parti, in particolar modo con il ridisegno dell'IRPEF e all'epoca ci fu lo sbocciare, diciamo così, certo, delle addizionali all'IRPEF locali, quindi in quel caso la delusione fu grossa. Lo ricordo non per amore di storia fiscale, ma perché sarebbe bello, diciamo, evitare in questa fase una delusione analoga, cioè con un alleggerimento del cuneo fiscale, quindi il delta, la differenza fra il costo del lavoratore e poi il reddito del lavoratore da un lato, e poi scoprire che ancora una rimodulazione delle aliquote o un intervento su altre voci fiscali come dire, interviene a rovinare la festa, anche perché 5 miliardi non sono tanti. No, poi tra l'altro sono al massimo 5 miliardi per tutti, cioè lavoratori e datori di lavoro, per cui ai lavoratori, da quello che abbiamo capito, andrebbero 2 miliardi e mezzo, cioè circa 250-300 euro di minore tasse in busta paga, di minore prelievo in busta paga nell'arco di un anno. Chiaro che se poi tu mi aumenti le addizionali di altro genere, altre imposte, mi bruci ogni tipo di vantaggio. Il presidente di Confindustria Squinzi su questo ha detto: attenzione, per un vero cuneo fiscale servirebbero 8-10 miliardi e si possono trovare con una seria spending review. Se fossero 8-10 sarebbe meglio. Io comunque rimango dell'opinione che su una pubblica amministrazione che spende annualmente oltre 800 miliardi, con un minimo di spending review si possono recuperare. Pochi giorni fa si era detto preoccupato per l'approvazione della legge di stabilità, è dello stesso parere? Sicuramente sì, nel senso che abbiamo il governo, perlomeno per il 14 di ottobre dovrebbe esserci la presentazione del testo definitivo, noi ci esprimeremo dopo aver visto il testo. Mi sembra un governo di ampie convergenze per il momento, poi mi auguro che possa veramente mettersi ad operare e incidere sui nodi del paese, che sono i nodi dell'economia reale, è lì dove dobbiamo lavorare. Così appunto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi al microfono della nostra Claudia Vanni, e domani appunto la Confindustria incontrerà il governo. Dopo il traffico però vorrei sapere da Gianni Trovati, insomma, cos'è sta cosa, perché mentre ragioniamo sullo sbloccare il patto di stabilità interno dei comuni virtuosi, tu hai scoperto, si fa per dire, che ci sono più buchi che buchi, voragini vere e proprie, e non parlo di quelle stradali. 864 milioni di buco nel comune di Roma, 861 nel comune di Napoli, 528 milioni a Catania, 490 milioni di buco a Milano. Cioè, insomma, questi sono i soldi che devono reperire i comuni se non vogliono chiudere i bilanci fuori da ogni ordine. Capire come ci si è arrivati dopo il traffico. E 20 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Gianni Trovati, i comuni dicono, per essere corretti, sono diminuiti i trasferimenti dello Stato. Milano è passata da 730 milioni nel 2010 a 460 milioni nel 2013, però io aggiungo anche che le tariffe dei servizi pubblici locali sono aumentate del 54%, voglio dire il 24% in più della media europea e il doppio dell'inflazione, per cui pensate che negli ultimi anni la sola tassa sui rifiuti è cresciuta in media del 56%. Allora, come si arriva a questo buco che riguarda grandi comuni italiani del sud, ma anche appunto del nord, Genova e Milano? Sì, il tema è, diciamo, i costi del caos normativo fiscale, eccetera, che hanno travagliato questo paese negli ultimi due anni. Il tema, diciamo, dell'inchiesta, che appunto, come dicevi giustamente tu, più che scoprire, ha raccolto e messo infatti, a sistema. Infatti c'è qualcuno che attacca, ma l'ha scoperto Grillo, ma infatti io l'ho detto scoperta come battuta, ha messo assieme i dati e ha fatto vedere quello che c'era. Sì, no, non l'ha scoperto Grillo, l'ha scoperto chi sta facendo i bilanci dei vari comuni. Non è il caso, per esempio, di puntare l'indice contro Marino. Marino è lì da un paio di mesi, tre, e quindi non è, come dire, lui il responsabile per quanto riguarda Roma. Il problema è il seguente: noi abbiamo vissuto, viviamo da un paio d'anni un clima di dibattito continuo e quindi di continui cambiamenti di regole su IMU, TARES e su tutto il fisco locale, sulla spending review, eccetera. Nel frattempo i comuni vanno avanti con, come dire, una gestione provvisoria, però quando si avvicina la fine dell'anno i nodi vengono al pettine e hanno quella entità che dicevi. Per esempio il caso degli 864 milioni di squilibrio di Roma, cioè di differenza tra entrate e uscite, nascono in parte, in una parte consistente, dal fatto che il comune fino adesso, nella prima metà dell'anno retto da una giunta, poi retto da un'altra giunta di colore opposto, ha gestito in dodicesimi, cioè ha stanziato ogni mese un dodicesimo dello stanziamento totale dell'anno scorso. Lo prevede la legge. Il problema è che in mezzo ci sono 3 miliardi di spending review e quindi è come vivere con lo stesso tenore di vita dell'anno scorso ma non avere più lo stipendio dell'anno ecco, scorso. Ecco, fammi una previsione, una battuta. Ce la faranno i comuni a trovare delle soluzioni per cui per non chiudere con questi buchi di bilancio oppure no? Allora, alcune tra virgolette soluzioni sono già più o meno in dirittura d'arrivo e sono aumenti fiscali di grossa entità. A Milano, per esempio, visto addizionali IRPEF e aliquota IMU sull'abitazione principale, ma Napoli ha ricevuto aiuti, a Roma pacchetto di tagli, incrementi. Faccio notare che a Roma poi c'è anche il caso ATAC che ha accumulato in questi anni 600 milioni dal 2008 di euro di perdite. Ma dico, alla fine tasse comunali, fammi capire. Al momento le soluzioni in mano ai comuni sono soluzioni di sopravvivenza, nel senso che uno deve approvare il bilancio in pareggio, perché lo impone naturalmente certo. La legge, essendo enti pubblici, ma una soluzione strutturale deve venire dalle regole. E quando arriveranno queste? Cioè quando... La legge di stabilità potrebbe mettere un primo tassello, tu citavi 2 miliardi di aiuto, però poi ci vogliono, diciamo, il federalismo fiscale e le regole sulla responsabilità eccetera avevano messo in piedi delle regole che però sono state rimandate, derogate o cancellate. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, vedremo cosa uscirà dal pacchetto del governo appunto entro il prossimo 15 ottobre. Un ultimo aggiornamento prima di chiudere, invece molto importante, sul Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. Dicevo, via libera al piano maxi aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo di euro, e però attenzione, il piano prevede 8.000 esuberi, se ben visto, fino al 2017, il rimborso di 3 miliardi dei Monti Bond entro il 2014, la chiusura di altri 550 sportelli, fissa il tetto agli stipendi dei manager a 500.000 euro. Allora, Marco Ferrando del Sole 24 Ore, questi sono i flash d'agenzia. La borsa ha festeggiato comunque questo piano, è il miglior titolo oggi tra quelle maggiore capitalizzazione. Vai. La borsa ha festeggiato forse perché non conosceva ancora il piano. No, è una battuta, perché il piano è stato presentato a mercati chiusi. No, ma si conosceva, circolavano già papelli prima. La buona notizia è che il piano c'è e che sta per arrivare l'ok definitivo, si dice appunto nel comunicato diffuso dalla banca, entro il 14 novembre sta per arrivare il via libera definitivo dall'Europa, e questo era fondamentale perché del piano di fatto fanno parte anche i Monti Bond, quindi gli aiuti di Stato. Se non fosse arrivato, se non arrivasse l'ok della Commissione europea, salterebbe tutto l'impianto di salvataggio a partire appunto dai Monti Bond. Sì, tu citavi giustamente quelli che sono i target, non dimentichiamo che questo è un secondo piano che di fatto innalza gli obiettivi inizialmente previsti per il piano 2015. Quindi rispetto alla cura dimagrante che già aveva avviato la banca e di fatto ha già anche raggiunto una serie degli obiettivi previsti, e si aggiunge un di più. Ad esempio le filiali dovevano esserne chiuse a 400, invece adesso si sale a 550. In tema di esuberi e di uscite, dai 4.600 del primo piano 2015 si sale agli 8.000. Quindi, come dire, la cura dimagrante aumenta, però aumentano anche gli obiettivi previsti. Infatti, se inizialmente per il 2015 si prevedeva di arrivare a un utile di 600 milioni, adesso l'obiettivo è di salire a 900 milioni. Perché? Perché si presuppone che una banca più snella, una banca riorganizzata e anche con alcune efficienze in più e alcuni risparmi. Tu citavi ad esempio il tetto ai trattamenti salariali anche per il management, tra l'altro un tetto fissato fino al rimborso dei monti bond oppure sì, all'aumento di capitale, come dire, fate il vostro lavoro e poi gli stipendi potranno tornare molto elevati. Ebbene, con tutto questo si presuppone di poter tornare a fare utili in più rispetto a quelli inizialmente previsti. Sì, c'è una previsione, se ho ben visto, di a fine piano, cioè 2017, un utile di 900 milioni di euro. La chiusura degli sportelli è, devo dire, significativa. 400 li hanno già chiusi a settembre, ma salirà a 550, quindi altri 150, se ho capito io. Non esattamente. E il limite agli stipendi dei manager l'abbiamo detto, e poi il via libera che dovrà arrivare entro il 14 novembre al piano. E il Monte Paschi, tra l'altro, ridurrà anche il numero di titoli di Stato in portafoglio. Sì, sappiamo che è uno dei problemi strutturali di molte banche italiane, soprattutto sì, oggi più grandi. Visco, il governatore, ha detto riducete le vostre acquisti di titoli di Stato e prestate più soldi alle famiglie e alle imprese. Lo ha detto a tutte le banche, non al Monte. Vale in particolare per il Monte, che deve evidentemente limitare anche l'esposizione sul rischio sovrano. Possiamo dire sul Monte che adesso la partita è sull'aumento di capitale e sul rimborso dei Monti Bond. Sull'aumento di capitale Bruxelles è stata chiara: entro il 2014 si devono portare a casa 2,5 miliardi, e questa è veramente una partita tutta da giocare e non facile, viste comunque le condizioni dei mercati. E l'altro tema è il rimborso dei Monti Bond, vale a dire 3 miliardi entro fine 2014, perché il principio di Bruxelles è tu aumenti di 2,5 miliardi e tutti quei soldi che ti entrano li usi per rimborsare i Monti Bond. Bisogna dire che comunque intanto il 2013, la cedola del 2013 che spetta allo Stato per i Monti Bond verrà pagata in azioni. Morale, con l'approvazione del bilancio del 2013, quindi lo primi Stato mesi 2013, entra nel capitale. Esatto. Cosa che temevamo fin dall'inizio, cioè se non riesci a ripagarle come soldi, come contanti, dai le tue azioni allo Stato, di fatto lo Stato, finché non verrà ripagato, entra nel capitale del Monte dei Paschi di Siena. Adesso entra con un 5%, bisogna vedere poi se sale. Grazie Marco Ferrando, fummo facili profeti, ma tant'è. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, Focus Economia termina qui. Grazie e un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.